Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Di Cristina Carpinelli. Servizio segnalazioni, buonasera. Sì, in corso Sempione, avrei bisogno di qualche indicazione in più, gentilmente, numero civico. Sì. Quindi mi diceva, una donna circa 60 anni, e corso Sempione, ok. Vuole lasciarmi un numero di telefono sul nominativo che la ricontattiamo per darle un feedback? Mi dica. Chiamate al giorno. È questa la media di segnalazioni che arrivano nella sala operativa della Croce Rossa. Sono tutti cittadini che scelgono di non ignorare chi sta al freddo, senza casa, rischiando la vita. Coloro che chiamano accettano di essere ricontattati dagli operatori della Croce Rossa di Milano per sapere come è andata a finire la loro segnalazione. Anche questo è un dato stupendo, significa che la preoccupazione per quell'altro, tanto lontano da sé, esiste. Inizia così la mia notte con le unità di strada della Croce Rossa sulle vie di Milano, dal centro alle periferie, per incontrare coloro che, nonostante il gelo, scelgono di restare in strada. Esistenze difficili da giudicare, uomini, donne, ragazzi, la cui vita è andata fuori dai binari e dalla società si sono estromessi dopo esserne stati cacciati. Un circolo vizioso che genera spesso depressioni e disturbi psichici. Il dolore di una solitudine difficile da condividere. Per strada, al freddo, ci sono anche intere famiglie. La prima persona che andiamo a visitare questa notte è Hassan, come ci spiega, mentre siamo in viaggio, Raul Scagnelli, il medico che è in turno questa notte. Adesso andiamo da Hassan, che è il primo assistito, che è già in, lo stiamo già monitorando da prima di quest'estate, da giugno. Primi di giugno. E lui sta sempre nella stessa zona, lo trovate sempre lì? Sempre lì, gira l'intorno perché ci sono dei giardini. L'ultima volta che l'ho visto era insieme a un orientale. E Hassan non viene a farsi curare in ospedale? Cioè, se continuate voi? Assolutamente no, no, perché ci sono anche questi. Fra l'altro, anzi, purtroppo la maggior parte degli assistiti che avrebbero bisogno anche addirittura del pronto soccorso, se non di essere ricoverati, si rifiuta di entrare in ospedale per un sacco di motivi. Prima di tutto perché non hanno permessi di soggiorno, sono clandestini, quindi hanno paura di essere rimandati a casa. E allora ci impegniamo noi a cercare di tenerli sotto controllo, anche se è abbastanza difficile perché proprio non riusciamo a controllare, nonostante facciamo due uscite alla settimana, le terapie, che possono essere importanti alle volte. Entrare in contatto con Hassan è come rallentare improvvisamente il tempo mentre attorno tutto scorre alla velocità consueta. Sì. Alessandro, cosa hai fatto adesso? Cosa stai facendo? Stai andando a prendere qua? Adesso stiamo andando a prendere lo zaino per fare le varie medicazioni e poi dobbiamo integrare allo zaino altre bende un pochino più specifiche che sono negli armadietti. O verosimilmente, o almeno una volta a settimana, questa qui è una delle tappe fisse per il momento. E vengono rifatte le fasciature dal medico e disinfettate le zone dove ci sono le abrasioni. Vedi? Ah, queste ulcerazioni. È seguito anche dal medico di specialità ortopedico, e che ha già tentato anche di mettergli delle fasciature elastiche, ma dovrebbe essere seguito perché vanno sbendati, vanno ribellati. Perché li ha bagnati e chiaramente la calza bagnata le macera il piede, che è già compromesso. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Meglio? Prima un po'. Ah, che bella fasciatura! Combinato di banditi. Yeah, oggi ho andato io da solo, combinato di bandi. Hai cambiato tu le bende da solo? Bandi da solo. Ok. Riesci a abbassarti? Sì, oltre la medicina, pulito le gambe e fatto i bandi. Ma dove riesci a fare questa operazione? Qua vicino al banco. Ok. Visitato Hassan, medicato tutte e due gli arti inferiori, gonfi e caldi, le ulcere su entrambi gli arti non sono bellissime, la pressione 140 su 240. Scusami Hassan, tu quando dormi dove ti metti? Io sempre alla sedia qua. Ma ti sdrai? No, no, così. Sei sempre seduto? Seduto, sì. Non va bene, sì, Hassan? Sì, sì, il letto va. Prova un attimo, prova a sollevarla più che puoi. Sollevala, riesci a sollevarla così? No, di più non riesci? Per alzare così. Sì, così, fammi vedere. Ognuna delle persone che incontrerò questa notte ha un racconto da consegnarmi, come quando Raul, il medico in turno in unità, mi parla di un ragazzo, un panettiere finito in strada dopo aver perso la famiglia, distrutto dal dolore che giorno dopo giorno si stava lasciando andare e che loro hanno salvato e riportato alla vita. Ci hanno chiamato una sera, non era sulla lista. Siamo andati ed era in condizioni disastrose, igieniche. Ti dico, gli abbiamo tolto i calzini, sono usciti le larve di mosca carnaria. L'abbiamo lavato, l'abbiamo pulito, l'abbiamo medicato. Ho chiesto la stessa sera l'intervento della sociale. Poi è passato anche Federico, lo psicologo. E praticamente lui è tornato a fare panettiere. Successo incredibile. Ma tu vai a vederlo, a trovarlo ogni tanto? Sono andato, ma adesso è praticamente al 100%, recuperato pienamente, sia fisicamente soprattutto, ma anche psicologicamente, perché veramente dal punto di vista psicologico ho provato. Non aveva più voglia di vivere, ecco. Federico Lupo Trevisan, la persona di cui ha appena parlato Raul, è lo psicologo che in Croce Rossa ha dato forma all'unità psicologica di strada, praticamente un progetto unico nel suo genere. L'unità si sviluppa attraverso dei percorsi mirati a tappe, quindi su segnalazioni degli altri volontari o di altre associazioni o dei cittadini, su persone che oltre alla vulnerabilità economico-sociale hanno anche una vulnerabilità psicologica, ma che proprio per le loro condizioni di vita non riescono ad accedere ai servizi territoriali come farebbe qualsiasi altro cittadino nelle stesse condizioni. Lo psicologo quindi arriva, diciamo così, a domicilio della persona che ha espresso necessità di un aiuto in tal senso e comincia ad un primo approccio tramite dei veri e propri colloqui di conoscenza in un setting chiaramente molto particolare. Nel tempo, riacquisendo un po' più di autostima o il desiderio di stare meglio, dallo psicologo che arriva sulla strada in orario serale si è cercato, con alcuni chiaramente, di far accedere gli stessi interessati a uno spazio di ascolto dove tra l'altro c'è lo stesso psicologo, quindi in continuità, però nella sede, quindi con un vero setting. Sì, da lì poi è compito della struttura, dell'associazione di chi ci lavora favorire dei canali per l'evolvere di questo tipo di percorso, per esempio attraverso contatti con la psichiatria, piuttosto che anche con altri colleghi psicologi o con le comunità per l'ingresso di persone che hanno necessità poiché fanno uso di sostanze o abuso di alcol. Una notte in giro per le strade di Milano con l'unità di strada della Croce Rossa che mi permette di conoscere anche la meraviglia di persone come Silvia Marcante, volontaria da 8 anni, che si emoziona mentre racconta di quando sono riusciti a strappare dalla strada un'intera famiglia. Abbiamo incontrato questa famiglia circa 4 anni fa, è una famiglia italiana, madre, padre e figlia. Purtroppo causa la crisi e una serie anche di, diciamo, leggerezze del papà, una volta perso il lavoro, la famiglia ha perso anche la casa e si sono trovati senza nulla e quindi sono finiti in strada, vivevano in un'auto e con loro abbiamo proprio fatto tutto un percorso di reinserimento sociale, di accompagnamento ai servizi e di riavvicinamento al lavoro. Adesso loro vivono in una casa e hanno riacquistato proprio una consuetudine, un modo di vivere normale, insomma. La figlia era maggiorenne? La figlia era a cavallo, nel senso l'abbiamo conosciuta che era 17enne, diventata maggiorenne, quindi c'è stato il problema anche che i servizi non potevano prenderla in affido, insomma, in cura. Quindi è stato proprio molto delicato, anche perché i genitori l'hanno tolta dalla scuola perché avevano paura che gli fosse tolta, insomma, quindi la situazione è stata davvero difficile e delicata da seguire, però insomma poi è andato per il meglio, fortunatamente. Ci fermiamo qualche istante e torniamo tra poco. Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Milano 10:62 in uscita. Inizia così il mio viaggio in una notte fredda di gennaio a Milano, assieme all'unità di strada della Croce Rossa, che ha in carico 300 persone senza fissa dimora che vivono per strada. Marco Tozzi è il co-coordinatore in Croce Rossa delle attività di senza fissa dimora. Quello che noi vogliamo fare è rovesciare l'idea in cui sia l'utente senza dimora che deve recarsi ai servizi. Noi stiamo cercando di portare i servizi presso il senza dimora. Tu mi raccontavi prima che in fondo questo sistema, che è un sistema di rete, è unico nel suo essere così esteso e così capillare. Sì, diciamo che il servizio che c'è a Milano ha una lunga storia di oramai 20 anni e nel corso di questi 20 anni ha potuto strutturarsi sia grazie al privato sociale che grazie anche all'aiuto del Comune di Milano e alle istituzioni, perché se esistono comunque tante associazioni, faccio giusto un esempio, sulla strada, in comunità di strada sono 15 associazioni più 12 comitati di Croce Rossa, quindi sono praticamente 27, quasi 30 entità separate. Comunque c'è, deve essere necessariamente un unico coordinatore che tiri le fila del discorso, e fortunatamente il Comune di Milano ci ha aiutato in questo, e permettendoci di lavorare insieme agli altri, cioè senza mai calpestarsi o senza mai sovrapporsi. Un'altra cosa che volevo chiederti invece, cioè nel tempo, no? Tu hai visto sicuramente cambiare la città. La città cambia in continuazione, anche i nostri utenti cambiano in continuazione. È un continuo divenire, per cui c'è stato un periodo in cui c'erano, nella zona centrale per esempio, c'erano moltissimi stranieri, adesso invece le percentuali sono più o meno equivalenti fra stranieri ed italiani, per cui cambiano anche il tipo di popolazione che troviamo sulla strada, cambia e cambia fortunatamente anche la cittadinanza, cioè quello che vediamo specialmente negli ultimi anni è che spesso e volentieri in strada, quando siamo con il nostro mezzo, i cittadini ci fermano e ci dicono: ragazzi, avete visto che là c'era un signore, venite a darci una mano, per cui siamo fermati dai cittadini, per cui c'è questo contributo della società civile. Anche molto banalmente abbiamo lanciato una richiesta di coperte per poter distribuire e ce ne portano a centinaia nella nostra sede, per cui comunque c'è una società civile che, a dispetto di quanto si dica in giro, comunque risponde, fortunatamente. Esiste un tempo di possibilità anche per chi ha perso la casa, un tempo entro il quale agire è fondamentale. Dopo, il rischio è che chi è finito in strada poi scelga la strada, anche come atto di allontanamento da una società che lo ha ferito e abbandonato. Allora, le possibilità sono molto basse, diciamo che la maggiore probabilità si ha nei primi mesi dell'arrivo in strada, quando ancora magari l'utente ha una rete sociale che comunque lo può supportare o comunque non è ancora stato del tutto risucchiato da quello che è la vita in strada. Quello che fanno questi volontari è commovente. Ho visto Maria Teresa D'Angelo in ginocchio pulire i piedi di un uomo a cui molti di noi non avrebbero stretto neppure la mano. Il desiderio di dare una mano comunque alle persone, soprattutto quelle che hanno vulnerabilità e che hanno bisogno comunque di una mano, e io, essendo in pensione, ne ho approfittato per appunto dedicarmi a queste persone. Ci sono delle cose che ti colpiscono, cioè quando torni a casa dopo un turno qui? È che la vita è veramente imprevedibile per tutti. Oggi hai una cosa e appunto vedendo e ascoltando le storie di queste persone può succedere che poi tutte le cose che hai, quindi la famiglia, una casa, un lavoro, potresti perderlo, quindi devi veramente lavorare molto su te stesso, perché comunque queste persone ti danno anche tanto, danno a noi volontari molta forza. Noi, almeno io personalmente, prendo forza da queste persone e me ne danno veramente tanta. All'età di 60 anni mi sono iscritta all'università di psicologia proprio per poter, insomma, essere pronta anche io psicologicamente ad affrontare sempre queste persone, ecco. Quella che vedono scorrere sotto i loro occhi questi volontari è la storia del nostro paese, con ondate di nuovi poveri, disperati. Silvia Marcante, volontaria da 8 anni in Croce Rossa. Nel periodo della crisi, 2 o 3 anni fa, c'è stato un aumento degli italiani in strada, però forse vivono la strada in modo un po' diverso, forse anche con la facilità della lingua, magari conoscono un po' meglio i servizi, perché insomma a Milano direi che ci sono tantissimi servizi, è una città comunque attenta. Ultimamente abbiamo visto tanti giovani ragazzi italiani in strada, tendenzialmente per problemi di dipendenze legati a droga, sostanzialmente a uso di sostanze. Intanto ci muoviamo attraverso la notte e arriviamo alla stazione di Greco, uno dei posti dove normalmente è possibile trovare persone a dormire al freddo. Ancora Marco e Silvia. Siete in zona Greco, ma siete in stazione o dove? Perché noi vi raggiungeremmo con Marco. No, e poi soprattutto poiché ogni giorno c'è un'unità di strada diversa che esce, cioè a seconda delle zone di Milano che si coprono, ci si passano ovviamente le informazioni per gestire al meglio poi il caso e dare una continuità sostanzialmente anche per la cura della persona. Quando capita, quando si sente, no, della morte di un senza fissa dimora per il freddo, a volte sono persone che quindi voi conoscevate? Per esempio quello che è morto a dicembre, Tudor, è una persona che conoscevamo da parecchi anni. Lui prima stava in Viale Monza e quindi lo conoscevano i nostri volontari del comitato di Sesto e di Bresso che coprono quella zona. Poi si era spostato in centro, dove lo seguiva il comitato di Milano. Poi si è spostato in zona ovest, dove lo seguiva sempre Milano e altre associazioni, nonché il nostro medico. Quindi lo conoscevamo da parecchio tempo. Purtroppo però succede, cioè dobbiamo farcene una ragione che a volte alcuni ci abbandonano lungo la strada. Ma per esempio ti dico un altro esempio interessante di una cosa che è successa 2 anni fa, un utente che seguiamo in centro, che conosciamo da 15 anni, un ragazzo peraltro simpaticissimo, e a un certo punto non lo vediamo più. Poi una nostra volontaria, che è infermiera volontaria e che fa il tirocinio in ospedale, fa: ma lo sai che ho visto il signor Tagliatelli, è ricoverato per tubercolosi. A che ne parlo con il medico e il nostro medico dice: diavolo, lui è stato a contatto con tante persone. Quindi che cosa ha fatto il nostro medico? Ha contattato ATS, gli ha spiegato la problematica, e il problema di ATS è che, ok, l'utente era in isolamento per TBC, però tutti gli altri che dormivano con lui, l'ATS non sapeva dove andare a trovarli. Quindi il nostro medico è andato, ha parlato, ha contattato tutti gli utenti, si è fatto dare il numero di telefono, in modo che poi hanno potuto contattarli per fargli la profilassi. Quindi questo è stato un servizio di prevenzione che le strutture pubbliche altrimenti non hanno, perché loro non hanno il polso di che cosa succede in strada, no? Cioè gli ospedali conoscono gli utenti che si portano lì, ma quelli che sfuggono alle visite non li conoscono molto spesso, e quindi non sanno quali sono le problematiche che poi in realtà è un problema che tocca tutta la cittadinanza, perché se una persona con la TBC va in giro, il problema c'è. Anche questo è un servizio in più che passa sempre sotto silenzio, però è qualcosa che, cioè, è sempre un po' lasciato alla libera iniziativa o al nostro entusiasmo, no? Cioè non c'è un qualcosa di strutturato, cioè siamo noi che ci siamo presi l'iniziativa di dire andiamo a cercarli, no? Io sono Maria Antonietta Marchese. Detta Tonia, giusto? Sì, cioè Tonia perché vabbè è il mio nome da sempre e quindi... Cosa stiamo facendo? Dove stiamo andando adesso, Tonia? Allora, adesso stiamo entrando all'interno della sala di attesa della stazione di Greco, dove non sempre, però spesso ci sono degli utenti che dormono. Un tempo stavano in fondo, i binari in fondo, ma adesso stanno facendo dei lavori e quindi lì non possono più fermarsi. Quindi alcuni si sono allontanati, hanno cercato altri posti riparati, pochi sono rimasti qua all'interno della stazione. Quindi adesso noi proviamo ad entrare e vediamo se troviamo qualcuno. Non sapevo che se dovessero anche in sta zona. La polizia ferroviaria. Buonasera. Buonasera. Biscottino? Biscottino anche. Cos'è con la paesina? A quello non ci siamo arrivati. No, forse ci abbiamo un dentifricio. Ce l'abbiamo. Forse adesso continuiamo. Lei non riesce a venire di là vicino al piazzale? Se no torniamo noi. Io già non riesco a venire qui con l'artrite. Dai, controlliamo, adesso controlliamo. Adesso caldo. Da caso torniamo. Meno male che arrivano qui, grazie. Ok. Biscottino? Biscottino. Ah, no, ok. C'è il panettone, c'è il panettone. Oh, pure. Sì. Antonio. Dai. Sì. Sì. Sai se ci sono tante persone qua dietro? Io preoccupo per me. Sì, grazie. Ok, grazie. Va bene. Ciao. Buona serata. Ciao. Da una delle unità di strada, termos di tè caldo e zaino pieno di biscotti, scendono anche due ragazzi molto giovani, forse il segno più bello di questa notte gelida. Ma come ti chiami? Riccardo. Quanti anni hai? 19. E stai facendo questo servizio? Cosa stai facendo stanotte? Si chiama unità di strada, assistenza ai senza dimora. Quindi cosa fai stanotte? Adesso cosa stai facendo? Andiamo dalle persone che ormai sono utenti conosciuti o anche nuovi e forniamo qualsiasi tipologia di aiuto siamo in grado di fornire loro, quindi dal cibo fino alle assistenze un po' più complesse. Da quanto tempo sei volontario? Febbraio 2017. 17 anni, sì. Tu quando è che hai iniziato a fare volontariato? Ho iniziato a 14 anni. E adesso ne hai 17? Sì. Quante sere fai? Quante sere dedichi alla Croce Rossa? No, non lo so, dipende. Io sono l'altro, sono quello che spaventa, sono quello che ti dorme. Ci fermiamo qui, scrivete a diario@radio24.it. Un saluto da Cristina Carpinelli. Io sono l'altro, puoi trovarmi nello specchio, la tua immagine riflessa, il contrario di te stesso. Io sono l'altro, sono l'ombra del tuo corpo, sono l'ombra del tuo mondo, quello che fai lavoro sporco al tuo posto. Sono quello che ti anticipa al parcheggio e ti ritarda la partenza, il marito della donna di cui ti sei innamorato, sono quello che hanno assunto quando ti hanno licenziato, quello che dorme sui cartoni alla stazione, sono il nero sul barcone, sono quello che ti sembra più sereno perché è nato fortunato o solo perché ha 20 anni in meno. Quelli che vedi sono solo i miei vestiti, adesso facci un giro e poi mi dici. E poi io sono il velo che copre il viso delle donne, ogni scelta opposizione che non si comprende. Io sono l'altro, quello che il tuo stesso mare lo vede dalla riva opposta. Io